13. Lo zio Benjamin scoprì di aver fatto i conti senza l'oste quando aveva promesso con aria di importanza che avrebbe portato Valency da un medico. Valency non vi sarebbe andata. Valency gli rise in faccia. Perché mai dovrei andare dal dottor Marsh? Non c'è niente che non vada nella mia testa, sebbene tutti pensiate che io sia diventata improvvisamente pazza. Beh, non è così. Mi sono semplicemente stancata di vivere per compiacere gli altri e ho deciso di compiacere me stessa. Avrete qualcos'altro di cui parlare oltre al mio furto della marmellata? Ecco qua. Dos, disse lo zio Benjamin con solennità e impotenza. Non sei te stessa. Ah sì? E chi sono allora? Chiese Valency. Tuo nonno vuon sbarra, rispose lui con disperazione. Oh, grazie! Valency sembrò compiaciuta. È un vero complimento, ricordo il nonno vuon sbarra. Era uno dei pochi esseri umani che io abbia conosciuto, praticamente l'unico. Beh, non serve a niente gridare, implorare o comandare, zio Benjamin, o scambiarsi sguardi preoccupati con la mamma e la cugina Stickles. Io non andrò da nessun medico e se porterai qui qualche dottore, io non lo vedrò. Che cosa hai dunque intenzione di fare? In effetti, che cosa? Non era appropriato e nemmeno possibile condurre Valency dal medico con la forza. E a quanto pareva non poteva farsi in nessun altro modo. A niente servirono le lacrime e le suppliche della madre. Non preoccuparti, mamma, disse Valency con leggerezza, ma in modo piuttosto rispettoso. Non è probabile che io faccia qualcosa di veramente terribile, ma intendo divertirmi un po'. Divertirsi? Mrs. Frederick pronunciò la parola come se Valency avesse detto che stava per avere la tubercolosi. Olive, che era stata inviata dalla madre per vedere se avrebbe potuto avere qualche influenza su Valency, se ne tornò a casa con le guance paonazze e gli occhi colmi d'ira. Disse alla madre che non c'era niente che si potesse fare per Valency, dopo che lei, Olive, le aveva parlato proprio come una sorella, con tenerezza e saggezza. Tutto ciò che Valency le aveva risposto, stringendo quei buffi occhi fino a farle divenire delle fessure, era: io non mostro le gengive quando rido. Come se lo stesse dicendo a se stessa più che a me. Davvero, mamma, per tutto il tempo in cui le ho parlato mi ha dato l'impressione che non stesse nemmeno ascoltando. E non è tutto. Quando mi sono convinta che le mie parole non avevano alcuna influenza su di lei, l'ho scongiurata di non dire niente di strano almeno la prossima settimana di fronte a Cecil quando verrà a trovarci. Mamma, cosa credi che abbia risposto? Non ne ho la più pallida idea, borbottò la zia Wellington preparata a tutto. Ha detto: mi piacerebbe assai scioccare Cecil, ha la bocca troppo rossa per essere un uomo. Mamma, non riuscirò più a provare le stesse cose per Valency. Ha la mente malata, Olive, affermò la zia Wellington in tono solenne. Non devi ritenerla responsabile per le sue parole. Quando la zia Wellington riferì a Mrs. Frederick ciò che Valency aveva detto a Olive, Mrs. Frederick espresse il desiderio che Valency si scusasse. 15 anni fa mi hai obbligata a scusarmi con Olive per qualcosa che non avevo fatto, disse Valency. Quelle vecchie scuse andranno bene per adesso. Si tenne un'altra solenne riunione di famiglia. C'erano tutti, a eccezione della cugina Gladys, che da quando la povera Doss era divenuta strana, aveva iniziato a soffrire tali torture per via della neurite alla testa da non potersi assumere alcuna responsabilità. Decisero, ossia accettarono un fatto che venne loro sbattuto in faccia, che la cosa più saggia fosse quella di lasciare Valency da sola per un po', di farle fare di testa sua, per dirle con le parole dello zio Benjamin, di osservarla attentamente, ma di lasciarla in pace. L'espressione vigile attesa non era stata inventata a quel tempo, ma questa fu praticamente la tattica che i distratti parenti di Valency decisero di seguire. Dobbiamo farci guidare dagli sviluppi, disse lo zio Benjamin. È, affermò solennemente, più semplice strapazzare le uova che non riportarle al loro stato originario. Naturalmente, se dovesse diventare violenta. Lo zio James consultò il dottor Ambrose Marsh, il quale approvò la loro decisione. All'adirato zio James, che avrebbe desiderato rinchiudere Valency in qualche luogo fuori mano, spiegò che lei per il momento non aveva fatto né detto niente che potessero addurre come prova di pazzia e che senza prove non si potevano internare le persone in quell'epoca degenerata. Niente di quanto lo zio James aveva raccontato sembrava veramente allarmante al dottor Marsh, che sollevò diverse volte la mano per nascondere un sorriso. Del resto, però, lui non era uno Sterling e sapeva ben poco della vecchia Valency. Lo zio James uscì e guidò verso Deerwood, pensando che il dottor Marsh non fosse dopo tutto un grande medico e che Adelaide Sterling avrebbe potuto trovare di meglio. 14. La vita non può fermarsi perché è assalita dalla tragedia. I pasti devono essere preparati anche se un figlio muore e i portici devono essere riparati anche se una figlia perde il senno. Molto tempo addietro, la meticolosa Mrs. Frederick aveva designato la seconda settimana di giugno alla riparazione del portico anteriore, il cui tetto si era pericolosamente incurvato. Molte lune prima, Roaring Abel era stato prenotato per quel lavoro e Roaring Abel si presentò prontamente al mattino del primo giorno della seconda settimana e si mise all'opera. Naturalmente era ubriaco. Roaring Abel era sempre ubriaco. Ma era soltanto al primo stadio, il che lo rendeva loquace e geniale. L'odore di whisky che esalava dal suo alito quasi fece impazzire Mrs. Frederick e la cugina Stickles durante la cena. Persino Valency, con tutta la sua emancipazione, non lo trovò gradevole, ma le piaceva Abel e le piaceva la sua vivida ed eloquente parlata e dopo aver lavato i piatti della cena uscì fuori, si sedette sui gradini e conversò con lui. Mrs. Frederick e la cugina Stickles lo considerarono un terribile modo di agire, ma che cosa potevano fare? Valency si limitò a sorridere loro beffardamente quando le dissero di rientrare, ma non accondiscese. Era così semplice disobbedire una volta che si era iniziato. Il primo passo era l'unico che contasse realmente. Entrambe avevano timore di aggiungere qualcosa che potesse indurla a fare una scenata di fronte a Roaring Abel, che con le sue caratteristiche osservazioni ed esagerazioni lo avrebbe spifferato a tutto il paese. Era una giornata troppo fredda, a dispetto del sole di giugno, perché Mrs. Frederick potesse sedere alla finestra della sala da pranzo per ascoltare che cosa dicevano. Fu costretta a chiudere i vetri e Valency e Roaring Abel poterono chiacchierare indisturbati. Ma se Mrs. Frederick avesse saputo che cosa sarebbe accaduto in seguito a quella conversazione, l'avrebbe impedita a costo di rinunciare per sempre alla riparazione del portico. Valency sedette sui gradini, sfidando la gelida brezza di quel freddo mese di giugno che aveva indotto la zia Isabel a dire che le stagioni stavano cambiando. Non le importava se avrebbe o meno preso un raffreddore, era delizioso starsene là seduti in quel bel mondo freddo e fragrante e sentirsi libere. Riempì i polmoni con il vento puro e gradevole verso il quale protese le braccia, permettendogli di scompigliarle i capelli, mentre prestava ascolto a Roaring Abel che le raccontò i suoi problemi, intervallando un gaio martellare alle sue canzoni da ubriaco. A Valency piaceva stare ad ascoltarlo. Ogni colpo del suo martello andava al ritmo con la nota. Il vecchio Abel, a dispetto dei suoi 70 anni, aveva ancora una bellezza maestosa e patriarcale. La sua tremenda barba, che ricadeva sulla magliettina di flanella blu, era ancora di un fiammante rosso intatto, sebbene la sua capigliatura fosse bianca come la neve e i suoi occhi di un fiero e tenero blu. Le sue enormi sopracciglia rossicce somigliavano più a dei baffi. Forse era per questo che teneva sempre il labbro superiore scrupolosamente rasato. Le sue guance erano rosse, così come avrebbe dovuto esserlo il suo naso, sebbene non lo fosse. Era un bel naso, dritto e aquilino, del quale anche il più nobile dei romani sarebbe andato fiero. Quando calzava le scarpe, sfiorava il 1,90 m. Aveva le spalle larghe, i fianchi stretti. In gioventù era stato un famoso Don Giovanni, trovando tutte le donne troppo affascinanti per restare legato a una soltanto. I suoi anni migliori erano stati un selvaggio e colorito panorama di follie, avventure, galanterie, fortune e sfortune. Aveva già compiuto 45 anni quando sposò una graziosa ragazzina che, in seguito ai suoi continui andirivieni, era morta dopo pochi anni. Abel era moderatamente sbronzo al suo funerale e aveva insistito per recitare il 55° capitolo di Isaia. Abel conosceva a memoria tutta la Bibbia e la maggior parte dei Salmi, mentre il sacerdote, che a lui non piaceva, pregava o tentava di farlo. Da quel giorno era stata una disordinata cugina a occuparsi della sua casa, preparandogli i pasti e lasciando che le cose seguissero il loro corso. La piccola Cecily Gay era cresciuta in questo ambiente poco promettente. Valency aveva conosciuto Sisi piuttosto bene nella democrazia della scuola pubblica, sebbene Sisi fosse più giovane di 3 anni. Dopo aver lasciato la scuola, le loro strade si erano divise e Valency non aveva saputo più niente di lei. Il vecchio Abel era un presbiteriano, ovvero si era procurato un predicatore presbiteriano in occasione del proprio matrimonio, della nascita della figlia Cecily e del funerale della moglie. Inoltre, sapeva più cose lui sulla teologia presbiteriana della maggior parte dei pastori d'anime, che erano pertanto terrorizzati all'idea di confrontarsi con lui. Ma Roaring Abel non andava mai in chiesa. Tutti i parroci presbiteriani che erano stati a Deerwood avevano tentato un tempo di riformarlo, ma di recente non era più stato tormentato. Il reverendo Mr. Bentley era a Deerwood da 8 anni, ma trascorsi i primi 3 mesi dal suo incarico, non era più andato a trovarlo. A quel tempo si era recato a fargli visite e lo aveva trovato nello stadio teologico di ubriacatura che seguiva sempre quello sentimentale e sdolcinato e precedeva quello chiassoso e blasfemo. Quello eloquentemente devoto, durante il quale si riconosceva temporaneamente e intensamente come un peccatore nelle mani di un Dio collerico, era lo stadio finale. Abel non andava mai oltre. Di solito si addormentava in ginocchio e si risvegliava sobrio, ma non era mai stato ubriaco fradicio in vita sua. Aveva detto a Mr. Bentley di essere un vero presbiteriano e di essere convinto della sua scelta. Non aveva peccati, a quanto gli risultava, di cui pentirsi. In vita sua non ha mai fatto niente per cui dispiacersi? Aveva chiesto Mr. Bentley. Roaring Abel si era grattato la bianca testa arruffata e aveva finto di riflettere. Beh, sì, aveva detto infine, ci sono state alcune donne che avrei potuto baciare e non l'ho fatto. Mi è sempre dispiaciuto. Mr. Bentley era uscito ed era tornato a casa. Abel aveva fatto in modo che Cecily, sì, fosse opportunamente battezzata, lui stesso giovialmente ubriaco in tale occasione. Si era sincerato che andasse in chiesa e a catechismo con regolarità. I fedeli si erano presi cura di lei e lei era diventata prima un membro della Mission Band, poi della Girls Guild e infine della Young Women's Missionary Society. Era una piccola lavoratrice ligia, riservata e sincera. Tutti provavano simpatia per Sissi e si dispiacevano per lei. Era così modesta, sensibile, carina, con quel tipo di bellezza delicata e sfuggente che sfiorisce tanto velocemente se non alimentata dall'amore e dalla tenerezza. Eppure, quando era giunta la catastrofe, la simpatia e la pietà non avevano impedito a quelle stesse persone di farla a pezzi come dei gatti famelici. 4 anni prima, Sissy Gay era andata in un hotel del Muskoka in qualità di cameriera estiva e quando era tornata a casa in autunno era un'altra creatura. Si era nascosta e non si era più fatta vedere in giro. Il motivo era presto trapelato e lo scandalo era stato inarrestabile. Quell'inverno il bambino di Sissy era venuto al mondo. Nessuno aveva mai saputo chi fosse il padre. Cecily aveva tenuto le povere pallide labbra strettamente serrate sul triste segreto. Nessuno aveva osato a chiedere a Roaring Abel. Dicerie e congetture avevano attribuito la colpa a Barney Snaith, giacché dalle accurate domande poste alle altre inservienti dell'hotel era trapelato che nessuno là avesse mai visto Sissy Gay con un individuo. Si era tenuta in disparte, avevano detto, piuttosto risentite. Era troppo superiore per i nostri balli e guardate adesso. Il bambino era sopravvissuto per un anno. Dopo la sua morte, Sissy era sfiorita. 2 anni prima, il dottor Marshall le aveva dato soltanto 6 mesi di vita. I suoi polmoni erano irrimediabilmente compromessi, ma lei era ancora viva. Nessuno andava a trovarla. Le donne non si sarebbero avvicinate alla casa di Roaring Abel. Mr. Bentley vi si era recato una volta quando sapeva che Abel era lontano, ma la spaventosa vecchia creatura che stava sfregando il pavimento della cucina gli aveva detto che Sissy non avrebbe ricevuto nessuno. La vecchia cugina era morta e Roaring Abel aveva avuto 2 o 3 disonorevoli massaie, l'unico tipo che potesse farsi convincere ad andare in una casa nella quale una donna stava morendo di tubercolosi. Ma l'ultima se n'era andata e Roaring Abel adesso non aveva nessuno che si occupasse di Sissy e che aiutasse lui. Era questo il fardello di cui si lagnò con Valency e condannò gli ipocriti di Deerwood e delle comunità circostanti con alcune fiorite e sostanziose imprecazioni che casualmente arrivarono alle orecchie della cugina Stickles, che stava in quel momento attraversando il salone e che, povera donna, quasi le dettero il colpo di grazia. Valency stava ascoltando un tale linguaggio? Valency notò a stento l'irriverenza. La sua attenzione era focalizzata sul terribile pensiero della povera, infelice, disgraziata e piccola Sissy Gay, ammalata e indifesa in quella misera e vecchia casa sulla strada per il Mista Whis, senza un'anima che l'aiutasse o la confortasse, e tutto questo in una comunità che voleva dirsi cristiana nell'anno di grazia 1900 e oltre. Vorrebbe dire che Sissi in questo momento è là da sola, senza che nessuno faccia niente per lei, nessuno. Oh, riesce un po' a muoversi, a mangiare un boccone e a cenare quando lo desidera, ma non può lavorare. È maledettamente difficile per un uomo lavorare sodo tutto il giorno e tornare a casa la notte affamato e doversi cucinare il proprio pasto. Qualche volta mi pento di aver buttato fuori la vecchia Rachel Edwards. Abel descrisse Rachel in modo pittoresco. Il suo volto sembrava avesse portato il peso di 100 corpi e si imbronciava, si parla di collera. La collera non è niente a paragone dell'abbattimento. Era troppo lenta per acchiappare i vermi e sporca, dannatamente sporca. Non sono irragionevole, so che un uomo deve ingoiare dei rospi prima di morire, ma lei aveva passato il limite. Che cosa pensi che io abbia visto fare alla signora? Un giorno preparò della marmellata di zucca, la ripose sul tavolo in dei contenitori di vetro senza il tappo. Il cane balzò sul tavolo e infilò la zampa in uno dei vasetti. E lei che cosa fece? Si limitò a trattenere il cane. Gli spremette via lo sciroppo dalla zampa e lo rimise nel vasetto. Poi avvitò il tappo e lo dispose nella dispensa. Spalancai la porta e le dissi: vattene. La dama se ne andò, io le lanciai dietro 2 barattoli alla volta di marmellata di zucca. Pensavo che sarei morto da ridere nel vedere la vecchia Rachel darsi la gambe con quei contenitori di marmellata di zucca che le piovevano addosso. Ha detto a tutti che sono pazzo, così nessuno verrebbe qui, né per amore né per denaro. Ma sì, si deve avere qualcuno che si prenda cura di lei, insisté Valency, la cui mente era incentrata su quell'aspetto della vicenda. Non le interessava se Roaring Gable avesse o meno qualcuno che cucinava per lui, mentre il suo cuore soffriva per Cecily. Oh, tira avanti. Barney Snaith fa sempre un salto da lei quando è di strada e fa tutto quello che lei desidera, le porta arance, fiori e altre cose. Ecco un vero cristiano. Eppure quella bigotta e piagnucolosa marmaglia di Sant'Andrew non si farebbe mai vedere sullo stesso lato della strada assieme a lui. Prima che lo facciano, i loro cani andranno in paradiso. E il loro parroco, pa, viscido come se il gatto lo avesse leccato. Ma c'è un mucchio di brava gente, sia a St. Andrew che a St. George, che sarebbe gentile con Sissi se lei, Abel, si comportasse come si deve, disse Valency con severità. Hanno paura di avvicinarsi alla sua dimora. Perché sono un triste vecchio cane? Ma non mordo, mai morso nessuno in vita mia. Qualche parola ardita lanciata qua e là non fa male a nessuno e io non chiedo alla gente di venire. Non li voglio a frugare e a curiosare. Quello che desidero è una domestica. Se mi radessi ogni domenica e andassi in chiesa, troverei tutte le governanti che mi occorrono. In quel modo sarei rispettabile, ma a cosa serve andare in chiesa se è tutto già predestinato? Dimmelo, signorina. Lo è veramente? Chiese Valency. Sì, non vedo altra possibilità. Mi piacerebbe non fosse così. Non desidero né soltanto il paradiso né soltanto l'inferno. Vorrei che un uomo potesse averne in uguale misura. Non è forse così in questo mondo? Disse Valency pensierosa, ma sembrava piuttosto che il suo pensiero andasse a qualcosa di diverso dalla teologia. No, no, tuonò Roaring Gable, assestando un tremendo colpo su un chiodo ostinato. C'è troppo inferno qui, decisamente troppo inferno. È per questo che mi ubriaco così spesso. Ti fa sentire libero per un po', libero da te stesso, sì, per Dio, libero dalla predestinazione. Hai mai provato? Oh no, ho un altro modo per sentirmi libera, disse Valency distrattamente, ma torniamo a Sissi, deve avere qualcuno che si prenda cura di lei. Beh, perché te la prendi tanto per Sissi? Mi sembra che non ti stia disturba, che non ti sia disturbata molto per lei finora. Non sei mai neppure venuta a trovarla e un tempo le piacevi così tanto. Avrei dovuto farlo, disse Valency. Ma non importa, lei non potrebbe capire, il punto è che lei deve avere una governante. E dove la trovo? Posso corrispondere un dignitoso stipendio se trovo una donna decorosa? Pensi che mi piacciono le vecchie streghe? Io potrei andar bene? Chiese Valency. Quindici. Manteniamoci calmi, disse lo zio Benjamin. Manteniamoci perfettamente calmi. Calmi. Mrs. Frederick si contorse le mani. Come posso stare calma? Come potrebbe chiunque stare calmo con una disgrazia del genere? Perché mai le hai permesso di andare? Chiese lo zio James. Permesso? E come potevo fermarla, James? A quanto sembra ha fatto la valigia e l'ha consegnata a Roaring Gables quando se n'è andato a casa dopo cena, mentre io e Christine eravamo in cucina. Poi Doss è scesa con la piccola tracolla e con indosso il vestito di serge verde. Ho avuto una terribile premonizione, non so come spiegartelo, ma sembrava che io sapessi che Doss avrebbe fatto qualcosa di spaventoso. È un peccato che tu non abbia avuto la tua premonizione un po' prima, disse seccamente lo zio Benjamin. Le ho detto, Doss, dove stai andando? E lei ha risposto, sto andando a cercare il mio castello blu. Non credi che questo convincerebbe il dottor Marsh che la sua mente è scossa? Intervenne lo zio James. E io ho detto, Valency, che cosa intendi? E lei ha risposto, mi occuperò di tenere in ordine la casa di Roaring Gables e assisterò Sissi. Lui mi pagherà $30 al mese. Oh, mi meraviglio di non essere morta sul posto. Non avresti dovuto permetterle di andare, non avresti dovuto permetterle di uscire di casa, disse lo zio James. Avresti dovuto sprangare la porta, qualsiasi cosa. Ma lei era tra me e il portone principale e non puoi immaginare quanto fosse determinata, era come una roccia. È questa la cosa più strana. Era sempre così brava e obbediente e adesso non è possibile né trattenerla né obbligarla. Ma ho detto tutto quello che mi veniva a mente per farla tornare in sé. Le ho chiesto se non avesse alcun riguardo per la propria reputazione. Le ho detto solennemente Dos. Una volta che la reputazione di una donna è sporcata, non c'è alcun modo per renderla nuovamente immacolata. Sarai compromessa per sempre se andrai da Roaring Gables per assistere a una cattiva ragazza come Sissy Gay. E lei ha risposto: Non credo che Sissy sia stata una cattiva ragazza, ma in tal caso non mi importa. Queste sono state le parole esatte. In tal caso non mi importa. Ha completamente perso il senso della decenza, esplose lo zio Benjamin. Sissy Gay sta morendo, ha detto, ed è una vergogna e una disgrazia che stia morendo in una comunità cristiana senza che qualcuno faccia qualcosa per lei, qualunque cosa lei sia stato o abbia fatto, è un essere umano. Beh, in effetti, quanto a questo, suppongo che lo sia, convenne lo zio James con l'aria di uno che stesse facendo una splendida concessione. Ho chiesto a Doss se non avesse alcun riguardo per le apparenze, lei ha detto. Ho badato alle apparenze per tutta la vita, adesso mi limiterò a guardare le cose concrete. Le apparenze possono andare a farsi benedire. Andare a farsi benedire! Una cosa oltraggiosa, disse lo zio Benjamin con veemenza, una cosa oltraggiosa! Cosa che alleviò i suoi turbamenti, ma che non fu di aiuto a nessuno. Mrs. Frederick pianse, la cugina Stickers la confortava tra un lamento di disperazione e l'altro. Le ho detto, entrambe le abbiamo detto che Roaring Gables aveva sicuramente ucciso sua moglie durante uno dei suoi eccessi da ubriaco e che avrebbe ucciso anche lei. Si è messa a ridere e ha risposto: Non ho paura di Roaring Gables, lui non mi ucciderà ed è troppo vecchio per me perché io possa temere le sue galanterie. Che cosa intendeva? Che cosa sono le galanterie? Mrs. Frederick comprese che doveva smettere di piangere se voleva riacquistare il controllo della conversazione. Le ho detto, Valency, se non hai alcun riguardo per la tua reputazione e per l'onore della tua famiglia, ne hai almeno un po' per i miei sentimenti. E lei ha risposto, nessuno. Proprio così, nessun riguardo per i miei sentimenti. Le persone instabili non hanno mai alcun riguardo per i sentimenti degli altri. Affermò lo zio Benjamin, quello è uno dei sintomi. Allora sono scoppiata in lacrime e lei ha detto: Su via, mamma, non prendertela, farò un'opera di carità cristiana e quanto ai danni che potrà procurare alla mia reputazione, beh, sai bene che non ho più alcuna possibilità di sposarmi, quindi qual è il problema? E con questo si è voltata e se n'è andata. Le ultime parole che le ho detto, affermò la cugina Stiglas in un tono patetico, sono state: adesso chi mi sfregherà la schiena la notte? E lei ha risposto: ma no, non posso ripeterlo. Sciocchezze, proruppe lo zio Benjamin, fuori il rospo, non è il momento per fare gli schizzinosi. Ha detto. La voce della cugina Stiglas era poco più che un sussurro. Ha detto: oh, maledizione! E pensare che avrei dovuto vivere per sentire mia figlia imprecare, singhiozzò Mrs. Frederick. Era soltanto l'imitazione di un'imprecazione, farfugliò la cugina Stiglas, desiderosa di appianare le cose ora che aveva detto il peggio, ma non aveva mai fiatato in merito all'episodio del corrimano. È a un solo passo dall'imprecare davvero, disse con serietà lo zio James. Il peggio di tutto ciò. Mrs. Frederick cercò una parte asciutta del fazzoletto. È che adesso tutti sapranno che lei è squilibrata. Non possiamo più tenerlo nascosto. Oh, non posso sopportarlo. Avresti dovuto essere più severa con lei quando era giovane, disse lo zio Benjamin. Non vedo come avrei potuto, disse Mrs. Frederick con onestà. L'aspetto peggiore della vicenda è che quella canaglia di Snaith è sempre a ciondolare attorno alla casa di Roaring Able, affermò lo zio James. Sarei grato se da questo folle evento non scaturisse qualcosa di peggio che qualche settimana trascorsa da Roaring Able. Sissy Gay non può sopravvivere molto più a lungo. E non ha nemmeno preso la sottoveste di flanella, si lamentò la cugina Stiglas. Mi vedrò di nuovo con Ambrose Marsh a questo proposito, disse lo zio Benjamin, riferendosi a Valancy e non alla sottoveste di flanella. Io vedrò l'avvocato Ferguson, asserì lo zio James. Frattanto, aggiunse lo zio Benjamin, manteniamoci calmi.